Italia in controluce. Daniele Biacchessi vi conduce tutti i giorni nel mondo della cronaca italiana, nelle mille storie che fanno la storia contemporanea del nostro paese. La prima e unica traccia di Italia in controluce riguarda quarantenni che perdono il lavoro e guardano al loro avvenire. Pensano cioè ad un nuovo impiego, ad esempio come l'infermiere. Il racconto di Cristina Carpinelli. Solo 5 anni fa c'erano più posti rispetto al numero di iscritti, tanto che fu fatta anche una campagna pubblicitaria per convincere i giovani ad iscriversi alla scuola per infermieri. Oggi la scuola per infermieri si chiama Laurea e non è cambiato solo quello. I numeri soprattutto sono mutati. Si parla di quasi 1000 domande per 300 posti. Succede in Lombardia, in Piemonte, in Liguria, succede soprattutto al nord. Sono dunque triplicate le richieste per entrare nella scuola dalla quale si esce con un camice e un lavoro sicuro. Come ci racconta Francesco Fanari, coordinatore del corso di laurea in infermieristica dell'Università degli Studi di Milano e dell'ospedale Fate Bene Fratelli. Che c'è stato un aumento di iscrizioni sotto gli occhi di tutti, nel senso che il numero di iscrizioni è proprio drasticamente aumentato nel nostro corso di laurea, no? Nel senso che gli anni passati le domande erano di poco superiori ai posti disponibili, quest'anno invece le domande sono almeno 2 volte i posti disponibili, quindi finalmente sarà possibile fare un po' di selezione, insomma. L'osservazione che posso fare io è che sicuramente un po' la crisi economica entro certi limiti può facilitare l'andare a iscriversi a uno dei pochi corsi di laurea che assicura un posto di lavoro. È questo che spinge soprattutto i ragazzi del sud a fare le valigie e partire all'avventura. È la storia di Anna Maria Parini, 24 anni, pugliese. Ho scelto di venire a Milano per fare i test perché qui fino a un paio d'anni fa c'era più possibilità. Nel senso che da noi in Puglia tipo dipende tutto da Bari e quindi fare test significa presentarsi, tipo c'erano tantissimi iscritti e meno posti. Tipo, i posti forse a Bari sono 350 e gli iscritti fino a qualche anno fa erano tipo 2000-3000 persone. Invece a Milano, quando l'ho fatto io, quindi 3 anni fa il test, eravamo tipo in 700, i posti erano 680, quindi questo diciamo è stato un fattore determinante. Sicuramente la motivazione forte è perché dal sud sostanzialmente non c'è tanta possibilità lavorativa e la sanità è rimasto uno dei punti insomma più favorevoli. Allora un ragazzo decide di spostarsi a fare l'infermiere perché ti dà una certezza anche lavorativa dopo. Ma la storia di Anna Maria tutto sommato è nota, diversa invece quest'altra che vi raccontiamo. Tra gli iscritti stanno infatti aumentando quelli che con oltre 30 anni sulle spalle e magari ottime esperienze lavorative in altri settori sono rimasti a casa e si sono dovuti inventare una nuova vita, un nuovo lavoro. Persone che hanno dovuto metaforicamente svuotare il loro zaino e riempirlo con un nuovo lavoro e nuove aspettative. Così come proponeva il tagliatore di teste George Clooney nel film Tra le nuvole. Immaginate per un attimo di avere uno zaino sulle spalle. Cercate di sentire le cinghie sulle vostre spalle. Le sentite? Ora dovete riempirlo con tutte le cose che avete nella vita. Cominciate da quelle piccole, gli oggetti sugli scaffali, nei cassetti, gingilli, oggetti da collezione. Sentite come aumenta il peso. Poi aggiungete le cose più grandi. Vestiti, elettrodomestici, lampade, biancheria, la TV. Lo zaino sarà piuttosto pesante. Ora le cose più grandi. Il divano, il letto, il tavolo da cucina, infilate tutto dentro, la macchina, pigiatela bene. La casa, che sia un monolocale o che abbia 2 camere da letto, tutto dentro quello zaino, infilate tutto bene dentro. Ora provate a camminare. È difficile, vero? Questo è quello che noi facciamo quotidianamente, ci appesantiamo a tal punto da non riuscire a muoverci, e state pur certi. Il movimento è vita. L'aumento di persone che tentano di iniziare la carriera di infermieri partendo da tutt'altro vissuto è un segnale forse positivo, è il segno che qualcuno sta ricominciando a sollevarsi dopo la bastonata della crisi. Poi ci sono le storie di ragazzi trentenni usciti dall'università a poco più di 20 anni pieni di sogni, ficcati in aziende dove il sogno si spegne nella quotidianità ed ecco comparire la scelta. Paolo Giobbi è l'incarnazione di quanto stiamo raccontando. Diciamo che dopo il liceo scientifico ho deciso di fare disegno industriale al Politecnico qua a Milano e mi sono laureato con la laurea triennale. Avrei voluto fare la specialistica perché dopo tutto l'avevo scelta per passione, quindi il lavoro per sé mi piaceva. Ho avuto la fortuna di trovare, di ricevere un'offerta lavorativa con contratto a tempo indeterminato subito dopo la laurea e ho accettato. E solo che dopo un anno e mezzo la realtà lavorativa commerciale ha un po' prevaricato tutto l'aspetto di passione per il design che avevo, per la comunicazione, e mi è venuto a mancare veramente tanto l'aspetto umano dell'ambito lavorativo. Per questo, con una scelta abbastanza travagliata, vabbè, che non sto a spiegare nel dettaglio, però poco prima dell'estate dello scorso anno ho deciso di mollare tutto, quindi mi sono licenziato e mi sono iscritto al test per scienze infermieristiche, un po' perché sì, di mio credevo che nell'ambiente sanitario avrei potuto colmare quel vuoto che avevo avvertito precedentemente, un po' perché ho avuto un punto di riferimento che è tuttora la madre della mia ragazza, che lavora in rianimazione a Garbagnate come infermiera professionale, che mi ha aperto questo mondo e di conseguenza ho fatto questa scelta. È andata bene e adesso sono al secondo anno. Come fly with me, let's fly, let's fly. Pack up, let's fly away. Era la prima edizione di Italia in Controluce, vi ricordo radio24.it è il luogo dove potete risentire tutte le voci, tutti i reportage, tutte le storie del nostro programma. Radio 24 Italia in Controluce è il gruppo su Facebook, la nostra mail controluce@radio24.it, nuove storie, nuove voci, oggi alle 13.30 naturalmente su Radio 24.